solo per raccontare storie di chi non può più parlare, chi non è nulla non viene ascoltato, chi dà silenzio e rimane schiacciato. Laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila. Scrivo solo per raccontare storie di chi non può più tornare, chi muore solo mentre respira, vita e lavoro, la tragica sfida. Come non è solo il compagno che muore.